America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Un po' di notizie politiche. Beh, vi avevo accennato ieri che George Bush Senior avrebbe fatto la sottoscrizione della candidatura di Mitt Romney. Ebbene, l'ha fatta, ma direi non ci sono delle straordinarie novità. Dunque, come ormai tradizione, da qualche puntata vorrei dedicare il venerdì alla nostra pagina culturale. In particolare vorrei dedicarla a un'iniziativa del nostro giornale, del Sole 24 Ore, che ha avuto grande successo, l'iniziativa per una riforma, un manifesto per la cultura. Ecco, questo manifesto ha avuto adesioni straordinarie da moltitudini di esperti, professori, politici nel settore culturale e non, e ha ospitato fra i vari articoli un intervento di Lorenzo Binismaghi. Lo ricorderete, era nel consiglio esecutivo della Banca Centrale Europea, oggi insegna a Harvard, è presidente della Snam Rete Gas. Ecco, ha pubblicato un articolo in cui chiedeva di considerare l'idea di introdurre deduzioni per la filantropia, e questo è un problema che io sento moltissimo, perché la filantropia in America poggia sulle deduzioni. È possibile dedurre la donazione per intero dalla propria dichiarazione dei redditi. Ecco, questo in Italia è più difficile, anche perché abbiamo una situazione di bilancio che non ci consente di fare molti sconti. Binismaghi è intervenuto con una proposta molto interessante. Ecco, abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Binismaghi per discutere di questa sua proposta, ma anche per esplorare sfide problematiche che riguardano la filantropia nel senso più lato del termine in Italia. Ve lo ricordo, Lorenzo Binismaghi Maghi e presidente della Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze. Buongiorno Binismaghi. Buongiorno. Qual è la sua idea, la sua proposta? La cosa più semplice, che però non funziona in Italia, è quella di defiscalizzare i contributi privati, perché chiaramente questa defiscalizzazione andrebbe a creare un problema di disavanzo pubblico, e in questo momento le finanze pubbliche del paese non se lo possono permettere. Secondo me invece bisogna ragionare a parità di bilancio. Come si può, mantenendo immutato il bilancio pubblico dello Stato, cambiare gli incentivi e fare in modo che le aziende e i privati siano più incentivati a erogare finanziamenti alle istituzioni culturali? Il modo per fare questo è di cambiare l'onere della fiscalità. Invece di tassare chi eroga il finanziamento, tassare chi lo riceve. In altre parole, un'azienda o un privato potrebbe dedurre fiscalmente il contributo alla cultura, cioè portandolo sopra la riga prima, cioè della distribuzione degli utili, erogare un finanziamento a un'istituzione, per esempio a Palazzo Strozzi, alla Fondazione Palazzo Strozzi, e Palazzo Strozzi, quando riceve questa erogazione, pagherebbe una tassa, tipo un IVA, una tantum su questo finanziamento. Perché questo agevolerebbe i finanziamenti alla cultura? Perché sicuramente le aziende avrebbero un incentivo a quel punto a portare sopra la riga i finanziamenti alla cultura, perché sarebbe come una spesa corrente. Ci sarebbe un incentivo da parte delle istituzioni culturali a cercare di attrarre questi finanziamenti, e dunque anche a presentarsi al settore delle aziende con dei bilanci trasparenti, con una governance moderna, con un rendiconto anche in termini di certificazione di bilanci, cioè a favorire quella modernizzazione delle istituzioni culturali, che è una delle condizioni per ricevere i finanziamenti e per incoraggiare le aziende a dare questi finanziamenti. Partendo da zero con questo tipo di incentivi, si potrebbe nel settore non profit cominciare a creare occupazione, magari occupazione fra i giovani. Ecco, non c'è l'incentivo ulteriore, oltre che quello di aiutare la cultura, quello di contribuire alla crescita economica del paese? Sì, ma le due cose sono legate, perché quando si parla di finanziamenti alla cultura non è che questi finanziamenti sono finanziamenti, come dire, nell'aria. Sono finanziamenti che creano occupazione. Il problema è che la spesa pubblica oggi non è più in grado di finanziare per un ammontare sufficiente PIL di cultura, diciamo. Ci vuole una parte sempre più importante che sia privata. Ecco, una domanda, diciamo, provocatoria sul piano economico / artistico. Noi abbiamo però, mi sembra di ricordare, una gran quantità di opere anche importanti che non sono nei musei, sono negli scantinati delle belle arti del Ministero della Cultura e così via, così via. C'è un modo economico per poter sfruttare, se non in mostre o non nella creazione di nuovi musei, che può essere costoso, queste opere, magari organizzando un collateral, cioè dandole in garanzie in cambio di finanziamenti per poter alleggerire almeno in parte il nostro debito pubblico, o vendere magari queste opere che comunque non si usano? Prima di venderlo, credo che c'è, per esempio, ci sono gli strumenti finanziari negli Stati Uniti, e ci sono alcune banche che sono specializzate in questo, nel prestare contro opere d'arte, proprio magari per ammodernare alcuni musei, per renderli più fruibili. Ci sono degli strumenti che si possono utilizzare, che insomma bisogna appunto attirare istituzioni private che sono specializzate in questo settore per utilizzare meglio il patrimonio che abbiamo, non solo come capitale immobile, ma anche come capitale che poi diventa più produttivo. Quanto è importante accompagnare a una innovazione di tipo finanziario o di finanziamento anche una semplificazione burocratica e della centralizzazione? È fondamentale, credo che bisogna imparare da chi ha fatto bene in questo campo. In Europa in particolare penso all'Olanda, che ha trasformato i grandi musei in fondazioni, facendo entrare nel capitale i soci privati. Solamente i privati entrano, e per attirare i privati bisogna seguire delle procedure di governo, di governance delle istituzioni, di trasparenza, che sono quelle standard. Dunque c'è un incentivo appunto a sburocratizzare, ad essere all'altezza delle altre istituzioni in termini di gestione del patrimonio. E con questa trasformazione in fondazioni molti musei si sono poi sviluppati, sono cresciuti, hanno reinvestito sul territorio, e credo questo sia un impulso molto importante di nuovo per l'attività economica. Ecco, secondo lei questa dovrebbe diventare dunque una priorità del governo Monti, questo insieme, questo pacchetto diciamo culturale, economico? Ma sicuramente deve essere una priorità, e mi sembra che questi manifesto anche che hanno firmato i tre ministri, no? Passera, Profumo e Ornaghi, dimostrano che c'è un impegno del governo e deve trasformarsi in una priorità in azioni concrete. Ma insomma, si parla tanto di crescita, occupazione giovanile, e questi sono tutti settori. Cioè, il settore della cultura è sicuramente un settore dove c'è un potenziale enorme, dove giovani talenti ci sono, bisogna dargli un'opportunità, un'occasione di entrare nel mercato, e sarebbe secondo me un volano molto importante. Dunque bisogna operare su tanti settori, ma questo è uno dove l'Italia può imparare dalle esperienze internazionali, e le esperienze che abbiamo fatto a Firenze con Palazzo Strozzi, dove i privati finanziano circa un terzo del bilancio, con lo Stato che finanzia un altro terzo, dunque uguali finanziamenti pubblici e privati. Beh, insomma, noi su Firenze creiamo un indotto che è tre volte il bilancio di Palazzo Strozzi. Dunque per ogni euro speso da Palazzo Strozzi il PIL della città di Firenze cresce di altri tre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Voglio dedicarla a Taylor Swift, giovanissima, deliziosa, pensata solo 22 anni. Lo faccio perché, restando in tema di filantropia, domani sera, sabato, la cantante riceverà il Big Help Award per il suo impegno nel sociale. A premiarla sarà addirittura, pensate, la First Lady Michelle Obama. Di Taylor Swift, Safe and Sound. I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your light. I remember you said don't leave me here alone. But all that's dead. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.